solitario, guaritore di ventura, grecanico, cantore, suonatore di tamburo, antidoto per tutti gli imprevisti della sorte, ad eccezione della morte. Dove cresce il timo la figliola riposava, il ragno lo sapeva e tesseva la sua tela. Svegliati che il tempo stringe, prendi il ritmo della danza, per guarire dal veleno, balla come la taranta. Tuo padre ti proibisce di giocare con l'amore e caccia i calabroni lontano dal suo fiore. Promessa sposa chi possiede terra in primavere, sei fuggita dall'altare. San Lorenzo accendi nella notte un desiderio, San Paolo dai la forza di mandare via il demonio. Svegliati che il tempo stringe, prendi il ritmo della danza, per guarire dal veleno, balla come la taranta. Come ragno muove il dorso per cacciare via il rimorso, batti in terra con la pianta, fai stancare la taranta. Come ragno muove il dorso per cacciare via il rimorso. Monti scivolati dietro il mare, il giorno della festa che sta per arrivare, il sorriso che nascondi sotto il tuo cuscino è la luna del mattino. Bella tarantata che risveglio dall'incanto, incantando me, dai più fiato a questo canto. Svegliati che il tempo stringe, prendi il ritmo della danza, guarire dal veleno, balla come la taranta. Svegliati, c'è un sole nuovo che comincia la salita, per offrire nuova luce a chi trova nuova vita. Svegliati che un sole nuovo brucia qui tra le